Ma solo ti sei salvato alla fine. Vorrei far predicare a Valerio, ma c'è Noemi. Vabbè, dai. Guarda, è bellissimo, bellissimo. Come stiamo, chiesa? O siete felici che ci sono io? Io sono molto, molto felice, ed è vero. Dopo quello che ha condiviso Valerio con noi, potrei semplicemente dire amen e ce ne potremmo andare a casa equipaggiati e soprattutto con un'idea chiara di che cosa significa essere chiesa, perché Valerio l'ha detto in maniera bellissima. Essere chiesa vuol dire essere parte di un gruppo di persone che sono state adottate, e non c'è ricchezza più grande, non c'è verità più sconvolgente che noi possiamo ricevere e far propria nella nostra vita. Sapete, la Chiesa, voi lo sapete meglio di me, è semplicemente un gruppo di persone che certamente sono molto ma molto diverse fra loro, giusto? Sì, siamo diversi, e meno male, pensate se fossimo tutti uguali. Siamo differenti, abbiamo esperienze, bagagli di vita così svariati, abbiamo personalità così diverse. C'è chi è simpatico e c'è chi non lo è. Scherzo, siamo tutti simpatici qui in questa chiesa. Era una battuta, dovevate ridere, adesso lo faccio da capo, così. Ci sono le persone simpatiche, ci sono le persone meno simpatiche. No, scherzo! Siamo tutti simpatici in questa chiesa, vero? Siamo accomunati, in realtà, semplicemente da due cose. Siamo tutti estremamente diversi l'uno dall'altro, ma siamo accomunati da due caratteristiche. La prima è la nostra imperfezione. Ebbene sì, se sei venuto in questo luogo pensando di trovare un posto perfetto, persone perfette, persone che non sbaglieranno mai, allora io ti posso dire che hai sbagliato posto, e che quel posto si chiama paradiso e che non è ancora qui. Quindi siamo tutti accomunati da la nostra imperfezione, dai nostri difetti, dalla nostra natura limitata, ma siamo anche accomunati dal fatto che tutti quanti noi, ad un certo punto della nostra vita, abbiamo riconosciuto Gesù come il nostro Signore. Abbiamo riconosciuto Gesù come colui che ci ha salvati, che ci ha dato una speranza, che ci ha strappati dalle tenebre per darci vita abbondante. Amen, Chiesa? Abbiamo riconosciuto che Gesù è il nostro Re, che a Lui appartiene la nostra vita. Abbiamo riconosciuto che è Lui che, mentre eravamo morti nei nostri peccati, ci ha vivificati attraverso il suo sacrificio, morendo, ma anche poi resuscitando per me e per te. Noi eravamo erranti come pecore, senza un destino, e poi Lui, il buon pastore, ci ha fatti ritornare all'ovile, dando una direzione alla nostra vita, dandoci un'identità ben precisa. Questa è la Chiesa, ed è l'invenzione più bella che Dio poteva mai avere. Lui non può avere idee sbagliate, idee mediocri, Lui è perfetto. E la Chiesa è una delle sue invenzioni più meravigliosa. Questa è la Chiesa. E sapete, essere parte, essere la Chiesa, ci dà due dà alla nostra identità due caratteristiche. La prima, come ha detto il pastore, essere Chiesa ci rende, sottolinea il fatto che siamo figli di Dio. La Chiesa è la famiglia di Dio, giusto? E quindi Dio è nostro padre, giusto? E quindi di conseguenza noi siamo i suoi e Lui è un Padre buono. L'abbiamo cantato, l'abbiamo confessato, l'abbiamo pregato. Noi abbiamo un Padre che è buono quando ci dice sì, che è buono quando ci dice no, che è buono quando ci dice aspetta, che è buono quando non ci dice niente, che è buono quando sembra che è lontano. No, no, no, Lui è buono, l'abbiamo cantato, è buono in ogni stagione. Sulla cima della montagna quando tutto va bene e nel deserto quando tutto sembra arido e che non ha speranza di crescita, Lui è buono e Lui è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Amen? Essere chiesa non sottolinea solo il fatto che siamo figli di Dio, ma evidenzia anche il fatto che siamo fratelli e sorelle. La Chiesa è la famiglia di Dio. Dio è nostro Padre, noi siamo i Suoi figli, di conseguenza tra di noi chi siamo? Siamo fratelli e siamo sorelle. E io è proprio su questo, su questa caratteristica della nostra identità voglio soffermarmi questa sera, voglio parlare. Ma che significa? Che significa che siamo fratelli e sorelle in Cristo? Perché io so per certo che Dio, e lo vedremo insieme, che Dio ha una volontà specifica su questa relazione, sulla relazione fratello-sorella. Lui sa perfettamente cosa dovrebbe caratterizzare la relazione che noi abbiamo o dovremmo avere essendo fratelli e sorelle in Cristo. E quindi la vogliamo scoprire insieme, sì? Perché vogliamo essere, chiesa rispondetemi, perché vogliamo essere una chiesa che è conforme all'idea che Dio aveva quando l'ha ideata, sì? Allora, chi può confermare che la relazione fratello e sorella, o fratelli in generale, è una, diciamo, di quelle relazioni più particolari, no? È bellissimo, è una un rapporto tanto meraviglioso quanto complesso, perché non so voi che esperienza avete con i vostri fratelli proprio del nucleo familiare normale, no? Mio fratello Walter e Gabriele, questo voglio dire, ma con lui, cioè è solo tra fratelli che nel giro di 5 secondi puoi passare dall'amore estremo al detestarsi nei modi meno, diciamo, opportuni. Io quando vivevo con Gabriele, che è su in regia, ciao Gabriele, fammi delle belle riprese, quando vivevamo nella stessa casa, cioè la casa certamente era più animata, perché si litigava, diciamo, ogni 2 giorni, no, ogni 2 ore neanche, ogni 2 minuti si litigava per le cose più banali, per la tavoletta che non era mai abbassata, per i calzini che erano sempre, diciamo, in questo corridoio che era spazio comune, quindi non erano lì che dovevano essere i calzini. E quindi io non perdevo occasione, no, di sottolineare quanto disordinato fosse mio fratello, e lui non perdeva occasione di sottolineare quanto non gliene importasse nulla del mio, diciamo, incoraggiamento a cambiare. È solo tra fratelli e sorelle che c'è quell'onestà che sfiora, diciamo, l'offesa, ecco. Mi ricordo, questo è Walter, che adesso abita in Australia, avevo deciso di vestirmi in maniera più, diciamo, rock, e quindi avevo messo questa fascia, questi orecchini belli, diciamo, più appariscenti, vedete, io non uso più orecchini da allora. Walter mi guarda, ehi Walter, allora, come sto? Noemi, ma cosa devi andare facendo? Dai, togliti quella fascia. È solo tra fratelli che c'è questa ironia, diciamo, che non useremo mai con nessun altro, se non tra fratelli. Non so chi non ha mai detto al proprio fratello minore che era stato adottato. Cioè, tutti quanti! E poi non si sa neanche... Ma perché ci diverte così tanto? Cioè, è una cosa brutta, è una cosa bruttina. Eppure noi l'abbiamo fatto tutti. E questa è la nostra natura compromessa, ve lo voglio dire. Proprio oggi ho ricordato a Gabriele che da piccolo mamma e papà lo lasciavano sempre a piangere da solo nel box perché erano impegnati con noi, cosa che non è neanche vera tra l'altro. Gabriele, mamma e papà ti vogliono tanto bene, vogliono più bene a me, ma la relazione tra tra fratelli e sorelle c'è anche questo, è una cosa buona, c'è questo senso proprio di protezione. È colpa dei miei fratelli se io sono ancora single. Perché loro, con la complicità di mio padre, hanno spaventato tutti i miei amici delle scuole medie, delle scuole superiori, non permettendomi di uscire senza che i miei due fratelli mi seguissero. Che gioia, veramente, è stato proprio... Poi uno si chiede, c'è una spiegazione a tutto. Ma a parte tutto, a parte l'ironia, le prese in giro, le piccole litigate, io amo, cioè proprio io amo i miei fratelli, io amo Gabriele, io amo Cinzia, io amo Walter, sua moglie, perché loro... sono i miei fratelli, sono miei. Cioè loro mi appartengono. E se loro non ci fossero, io perderei una caratteristica della mia identità, l'identità di sorella. Io la perderei se non ci fossero loro. Loro sono miei, mi appartengono. Chiesa, noi siamo fratelli in Cristo. Noi ci apparteniamo, siamo fratelli e sorelle in Gesù ed è un legame che va molto molto oltre i legami di sangue o di parentela. Noi ci apparteniamo, siamo uniti. Io non sono solo quella che oggi ti sta passando un messaggio. Io sono tua sorella. Chi ti sta accanto non è una persona che ad un certo punto nella sua vita ha preso la stessa decisione con te di seguire Gesù. Non è solo quello. Chi ti sta accanto è tuo fratello, ti appartiene, è tua sorella, ti appartiene. Sapete, noi siamo Chiesa perché non siamo stati creati per essere da soli. Non ci possiamo stare da soli. Tu ti puoi convincere quanto vuoi che stai bene da sola, che non hai bisogno di nessuno, che puoi vivere la tua vita con Gesù a livello individuale. Ehi, è una bugia. Gesù avrebbe potuto salvarci, avrebbe potuto prometterci la vita eterna, ci avrebbe potuto far crescere nella relazione con Lui individualmente. Ma non l'ha fatto. Sarebbe stato molto più semplice. Più spazio per me, è tutto a mia misura, non c'è modo o opportunità di conflitto, non c'è rischio di delusione o di ferite, tutto molto più morbido, tutto molto più facile, ma non altrettanto perfetto. Perché Dio ci ha creato con un bisogno nel nostro DNA di essere insieme, di essere una comunità. La prima cosa che Dio ha definito non buona è stato quando ha visto Adamo e l'ha visto solo. E i cieli erano buoni, e la terra era buona, e gli animali erano buoni. Adamo, solo. No, questo non è buono. Perché? Perché noi, che ci piaccia o meno, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Noi, che ci piaccia o meno, abbiamo bisogno per crescere, per migliorarci, l'uno dell'altro. E tante volte in queste ultime settimane abbiamo parlato di andare di gloria in gloria. E io prego che possiamo comprendere che questo andare di gloria in gloria coinvolge tutte le aree della nostra vita. Tu puoi andare di gloria in gloria nella tua sfera familiare, puoi andare di gloria in gloria nella tua sfera lavorativa, ministeriale. Noi possiamo crescere di gloria in gloria nelle nostre relazioni e in modo particolare nella relazione tra fratello e sorella, perché Dio ci vuole far crescere, perché Dio vuole che noi diventiamo quella chiesa fatta di persone che sono consapevoli di chi sono. E noi siamo figli di Dio e noi siamo sorella e fratello in Cristo. Amen? Io vorrei che in questo tempo che stiamo passando insieme riflettessimo. Che significa? Che significa per me? Io non ti dirò niente che tu non sai oggi. Ma questo vuole essere un ricordarci di chi siamo e di che cosa siamo chiamati a vivere nella relazione che noi abbiamo tra fratello e sorella. Sapete, in 1 Giovanni 3,14 c'è scritto: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i nostri fratelli. Chi non ama rimane nella morte. È un legame che va oltre le simpatie e le antipatie. È un legame che va oltre la compatibilità di carattere. È un legame che va molto oltre il tempo che abbiamo a disposizione per passare fisicamente insieme. Noi siamo fratelli e sorelle. È la volontà che Dio ha per noi come Chiesa è che ci amiamo. Perché? Perché è grazie all'amore che noi abbiamo qui, tra di noi, non sto parlando, poi parleremo anche degli altri, ma tra di noi. E quell'amore, l'abbiamo letto, che dimostrerà a chi ancora non crede in Gesù che c'è qualcosa di diverso. Che forse non è tutta una storiella. Che forse quasi quasi io ci posso credere veramente. Perché lo vedo. In Galati 6 c'è scritto: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Cioè, non è fantastico, non è meraviglioso, non è meravigliosa la chiarezza con la quale la Bibbia ci parla. Gesù l'ha detto, il comandamento è: ama Dio e ama il tuo prossimo. Il tuo prossimo sono questi tutti. Ma specialmente ai fratelli in fede. Vuol dire che noi dobbiamo amare tutti. Ma dobbiamo avere un occhio di riguardo tra di noi. Perché? Perché chi non crede in Gesù, che sono i tutti, che sono il nostro prossimo, quando guarda l'amore particolare, forte, profondo, coerente, costante, che c'è tra i fratelli, tra di noi, che siamo la famiglia di Dio, chi ci vede dice, no, quasi quasi, ci credo veramente. E allora che succede? Succede che da essere solo uno dei prossimi, da essere tutti, diventa pure lui fratello e può essere amato con un occhio particolare pure lui. Capite cosa vi voglio dire? Le nostre relazioni, come ci amiamo, come ci rispettiamo, come ci proteggiamo, ha un valore, ha un peso spirituale che va molto oltre e noi non possiamo neanche capire. Io ti voglio dire che forse la predicazione più potente che tu puoi fare nella tua vita è quando ami tuo fratello e tua sorella con un amore sincero, è quando rispetti tuo fratello e tua sorella con un rispetto che è costante, è quando non ignori il fratello che magari che ti sta sullo stomaco, ma vinci quell'antipatia e ami in una maniera sincera. Amen? Questo è il piano che Dio ha ha sempre avuto per la sua Chiesa. Siamo figli di Dio, bellissimo. Siamo fratelli e sorelle, bellissimo, bellissimo. Noi possiamo predicare il Vangelo amandoci. In altre parole vuol dire che quando io, come ho appena detto, rinuncio a dire per forza la mia, quando io rinuncio a fare gossip, a un po' criticare, quando io accolgo, quando io apro casa mia per ospitare il gruppo e la metto in ordine e faccio in modo che ci possa essere un'atmosfera d'accoglienza, un'atmosfera piacevole, quando io aiuto, offro un aiuto che sia spirituale, che sia pratico a un fratello che è nel bisogno o che non è nel bisogno ma lo vogliamo aiutare per lo stesso, sto facendo tre cose. Lo volete sapere? Sto ubbidendo a un comando diretto che Dio ci ha dato. Amate tutti, specialmente i fratelli nella fede. Allora, questo è un comando. È un comando dato da un padre buono. È un comando. Allora noi siamo ubbidienti. La seconda cosa che facciamo è che assolviamo al nostro ruolo di fratelli. La terza cosa che facciamo è che predichiamo il Vangelo in una maniera coerente, in una maniera che è aderente a quello che noi confessiamo. Io penso che la frase più triste che mi fa stare veramente male, che sento, e purtroppo la sento spesso, è questa. Vabbè, non è che c'è così tanta differenza tra voi di dentro e noi di fuori. Dentro si litiga e fuori si litiga pure. Dentro si critica e fuori si critica pure. Mi sto fuori così manco mi devo sentire in colpa. Noi siamo la famiglia di Dio. E Dio non ci chiede niente che è troppo al di là di quello che noi possiamo vivere. Quindi se Lui ci dice che siamo fratelli e sorella e che siamo equipaggiati per amarci bene, allora noi non possiamo fare altro che crederci. Sì? Amen? Ho fatto tutto mischiato, adesso non lo so più dove sono. Io voglio darvi solo due esempi di due coppie di fratelli che è meglio, diciamo, non prendere come esempio, anche perché voglio dire, nella prima coppia uno dei due è morto, quindi non lo prendiamo assolutamente come esempio. La prima coppia è quella di Caino e Abele, che noi simpaticamente abbiamo ribattezzato Caele, ma no, sono Caino e Abele. In Genesi lo sappiamo la storia, no? Caino, arrabbiato, invidioso, deluso, uccide suo fratello. E allora in Genesi 4:9 abbiamo Dio che fa una domanda a Caino e dice: dov'è Abele, tuo fratello? E Caino risponde: boh, non lo so. E dopo fa quella che è la primissima domanda che l'uomo ha fatto verso Dio. Cioè, la domanda di Caino è stata la prima domanda da parte dell'umanità verso Dio. E dice: sono forse il custode di mio fratello? Sono forse il custode di mio fratello? Cioè, sono il suo guardiano? Devo prendermi cura di lui? È una mia responsabilità e il suo benessere? Devo preoccuparmi anche di lui? Io ho la mia vita, ho tutti i miei problemi, ho tutte le mie attività, ho la mia famiglia, ho il lavoro, ho la scuola, mi devo preoccupare anche di mio fratello? Sono io, forse, il custode di mio fratello? è Dio. Da quel momento in poi, libro dopo libro nella parola di Dio, versetto dopo versetto nella sua parola, non fa altro che rispondere con un grande e grosso sì. Sono io il custode di mio fratello? Sì. Sì, Caino, eri tu il custode di tuo fratello. Eri tu che lo dovevi proteggere. Eri tu che ti dovevi prendere cura di lui. Lo vediamo Gesù che predica sulla parabola del buon samaritano. Non è quello un prendersi cura del proprio fratello? Tutto il sermone sul monte, a chi porgi l'altra guancia, dai il mantello. Vediamo tutte le indicazioni nelle lettere del Nuovo Testamento, quando Paolo, chi per lui, dice saluta quello, dai il bacio a quello, prenditi cura di quell'altro, manda i soldi a quello. Non è questo un prendersi cura dei nostri fratelli e delle nostre sorelle in Cristo? La risposta che Dio ha dato dal momento in cui Caino gliel'ha fatta quella domanda: sono forse il custode di mio fratello? Sì. È una tua responsabilità, è un tuo onore amare, perdonare, incontrare, interessarti, chiamare, ospitare, non criticare, accettare le differenze, chiarire. Sono io il custode di mio fratello? Noi abbiamo l'onore, perché non è un peso, non vi voglio dare un peso, perché non lo è, perché poi vedremo che, non voglio farlo troppo veloce, ma noi abbiamo l'onore di proteggere l'unità della Chiesa, perché è quella unità che parla di un Gesù che è vivo, è quella unità che porterà i tutti a diventare i nostri fratelli e sorelle in Cristo, e al diavolo non piace. Quindi apriamo gli occhi. L'altra storia che vi voglio portare come esempio è la storia di un'altra coppia di fratelli, lo sappiamo tutti, la conosciamo tutti, si trova in Luca 15, ed è la storia, che cosa si trova in Luca 15? È la storia del figliol prodigo, insomma di questo figlio che se n'è andato. In realtà Gesù racconta questa storia del figlio prodigo come la terza storia di una serie, perché la prima parabola, la prima storia che Gesù racconta è quella della pecora smarrita. Poi c'è la storia della monetina, della dramma persa, e poi c'è la storia di questo figlio che si era perso in un certo qual senso, pure lui. Per chi non la conosce, certamente la puoi andare a leggere in Luca 15, però te la voglio raccontare in pochissime parole. C'è questo padre che ha due figli. Il figlio minore dice: papà, dammi tutto che me ne voglio andare. Il papà glielo dà. Il figlio se ne va in un paese lontano e sperpera tutti i soldi che il padre gli dà, vivendo una vita dissoluta. Cioè, si è fatti i fatti suoi e si è trovato male, perché poi è venuta una caressia. Si è trovato ad affrontare una situazione drammatica dove non poteva né mangiare, non poteva né bere, era nel bisogno più assoluto, e quindi ritorna nei suoi sensi e dice: adesso ritornerò da mio padre. Ritorna dal padre, il padre lo stava aspettando, gli corre dietro: figlio mio, sei venuto qua, ti do l'anello, ti do il mantello, ti ammazzo il vitello ingrassato, facciamo festa perché eri morto e adesso sei vivo, eri perso e adesso sei ritrovato. Questo fratello aveva un altro fratello maggiore che stava nei campi, che quando ha visto tutto quello che era successo, ha detto: ma cioè, ma stiamo scherzando? Insomma, non era molto contento della situazione. Ma l'attenzione che voglio qualcosa che voglio sottolineare è questo: nella parola nella storia della pecora perduta, il pastore va a cercare la pecora. Nella storia della dramma della monetina perduta, la donna mette in subbuglio la casa e cerca la monetina. Nella storia del figlio, chi va a cercare il fratello? Chi va a cercare il fratello? Nessuno. C'è un pastore che lascia tutto e va a cercare e trova. C'è una donna che mette in rivoluzione la casa e trova la monetina e poi fa festa. C'è un figlio, cioè si parla di una pecora, di una monetina e di una persona, di un figlio, che va via. E chi lo va a cercare? Nessuno. Io credo che Gesù volesse, quando ha raccontato questa storia, che chi stava ascoltando individuasse questa differenza. Come oggi noi dobbiamo individuare questa differenza e dobbiamo chiederci: ma non è che qualcuno doveva andare a cercare questo fratello? Sapete, culturalmente, quando succedevano queste storie, questi problemi, nella famiglia era la responsabilità del fratello maggiore quello di andare e di interessarsi. Quindi culturalmente era il fratello maggiore che doveva lasciare tutto quello che stava facendo e doveva andare a trovare questo fratello un po' sprovveduto. Che cosa stava facendo? E invece dove lo troviamo? Nei campi. In altre parole, lui, il fratello maggiore, ha continuato a fare tutto quello che ha sempre fatto. Ha continuato a vivere la sua vita come l'aveva sempre vissuta. E chiesa, quanto è facile che noi cadiamo in questa trappola, fatemi dire così, che conduciamo la nostra vita e la nostra vita di credenti perfetti, la nostra vita di chiesa, e non ci accorgiamo che magari chi ti sta accanto sta vivendo una situazione terribile e tu puoi dare una parola di incoraggiamento e tu puoi dare il tuo aiuto e tu puoi essere presente. Quanto è facile che veniamo qui la mattina e la sera e adoriamo, Signore, bellissimo, e diamo la decima e facciamo pure i percorsi, quindi queste cose le impariamo pure. E poi ci perdiamo. E c'è un gap, c'è uno spazio tra quello che sappiamo e quello che poi invece facciamo. C'è un'incoerenza. Quanto è facile continuare a servire, continuare a fare tutto quello che sempre abbiamo fatto, per Dio, che sono cose buone, ma a trattenere quei rancori, a trattenere quelle discordie, a trattenere quei pettegolezzi, a fare domande che non devi fare tu, a interessarti di cose che non sono le tue, per creare confusione, per compromettere delle relazioni che invece devono essere sante. Non so trovare una parola migliore, devono essere sante. Perché Gesù è tra di noi, e Gesù sta dove c'è santità. In realtà, posso essere sincera, chiesa? No, ogni tanto vi richiamo, perché insomma, questo silenzio. Allora, in realtà noi gli abbiamo dato sempre addosso a questo fratello maggiore. Sempre. Cioè io per prima, quando leggevo, dico: mamma mia, questo fratello. Però in realtà, poi scavando un po' nel mio cuore, quella è la parte della storia che è più logica. Cioè, che doveva essere pur contento il fratello. Non credete? Non, Non vi è mai balzato nella testa mentre leggevate questa storia? C'è il fratello minore, ma tu guarda un po', e si è speso i soldi, e ha fatto tutti i fatti suoi, e mo viene a piangere, e io devo essere pur felice. Io lo dovevo andare pure a cercare, ma se l'ha deciso lui di andare dove voleva, è adulto? Non è affar mio, lo dovevo andare pure a cercare. Devo essere pur contenta o contento che è ritornato. Il fratello maggiore aveva tutte le ragioni per comportarsi come si è comportato. E noi abbiamo spesso tutte le ragioni per vivere delle relazioni che non vanno. Scusa? Cioè io devo essere il custode di quello che mi ha visto e non mi ha salutato? Cioè, scusami, io devo essere interessato a chi mi ha deluso, mi ha ferito, mi ha spezzato il cuore? Io devo essere accogliente e amare qualcuno che è venuto a casa al gruppo e mi ha pure criticato come c'avevo il salotto? Le vengo a sapere queste cose. Le vengo a sapere. Capite cosa vi voglio dire? Ci abbiamo tutte le ragioni. Però non è così che deve andare. Perché altrimenti che cosa stiamo facendo? Cioè, che cosa stiamo vivendo? Che cosa stiamo predicando? Poi c'hanno ragione quelli che ci guardano, che magari non conoscono Gesù e dicono, ma sono meglio fuori. Allora, com'è possibile? Cioè, com'è che possiamo risolvere questa situazione? Cioè, se il fratello maggiore c'aveva pur ragione, ma adesso lo stiamo dicendo, come si esce da questo problema? Per andare, cosa abbiamo imparato? Per andare di gloria in gloria, a chi dobbiamo guardare? Chiesa? Per andare di gloria in gloria, a chi dobbiamo guardare? A Gesù. Sì. Gesù, dobbiamo guardare a Lui e seguire l'esempio di quello che Lui ha fatto per noi. Gesù ha fatto per noi quello che il fratello maggiore non aveva fatto, non ha fatto per il fratello minore. Il pastore è andato a trovare la pecora, la donna ha cercato la monetina. Gesù ha fatto per me e per te quello che il fratello maggiore ha fallito di fare. Perché? Perché Gesù è il nostro fratello migliore. Gesù è il nostro fratello maggiore, ma è il nostro fratello migliore pure. È in Lui che abbiamo l'esempio ed è in Lui che abbiamo la risorsa per vivere in maniera coerente con quell'esempio. C'è scritto, non me lo sto inventando, non è un titolo, tra l'altro il titolo è Gesù, virgola, fratello migliore, ma non è solo il titolo, c'è scritto in Romani 8:29. Lo leggiamo insieme, se lo possiamo proiettare. Poiché quelli che ha anche preconosciuti, li ha anche predestinati. Sta parlando della Chiesa, ok? A che cosa? A che cosa siamo chiamati? Ad essere conformi, vuol dire uguali, all'immagine di suo figlio, che è il figlio Gesù, affinché egli, Gesù, sia il primogenito tra molti fratelli. Gesù è il nostro fratello migliore e Gesù ha fatto per me e per te quello che nessuno poteva fare. Sapete, con questo voglio concludere. Il fratello nella storia non ha lasciato la casa del Padre. Gesù ha lasciato la destra del Padre, ha lasciato i cieli, ha lasciato l'eternità per venire a cercare te e me, che eravamo morti nei nostri peccati, e darci nuova vita. Può essere che Dio oggi ci sta chiedendo di fare poco poco la stessa cosa. Gesù ha lasciato il trono, viveva in questa Trinità perfetta, ha innamorato Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, l'ha lasciato per venire a cercare a me e a te. Forse poco poco Dio ci chiama a fare lo stesso, ad essere conformi a questo, e a lasciare i rancori, a lasciare la delusione, a lasciare la ragione, questo senso di giustizia, e ad accogliere, e ad amare, e ad accettare. Il fratello maggiore non si è scomodato di andare nel paese lontano dove stava il fratello. Gesù si è fatto uomo. Gesù è andato oltre ogni idea di scomodo. Gesù, da essere Dio, si è messo in un corpo limitato. Da essere onnipotente, si è messo in un corpo che era limitato, che era umano, che era finito. Da essere onnipresente, si è messo in una situazione dove c'aveva fame, dove c'aveva sete, dove piangeva, dove Gesù si è scomodato per venire a cercare te e per venire a cercare me e per darci perdono e per darci una nuova vita. E se tu non lo conosci, questo è il messaggio principale che devi prendere questa sera. Gesù ti ama e vuole darti una nuova vita in Lui. Forse poco poco, se Gesù si è scomodato per dare a me una seconda possibilità, poco poco forse Dio ci sta chiedendo, tra fratello e sorella, di fare la stessa cosa. E dalla una seconda possibilità. È la volontà di Dio. Non stai facendo niente di... È la volontà di Dio. Dalla una seconda possibilità. E dalla una terza. E dalla una decima. Perché è tutto a guadagno. È tutto a guadagno. Il fratello si è attaccato allo status, perché lui era diventato, con l'eredità del padre, era diventato importante nell'azienda di famiglia. Si è attaccato allo status e alle ricchezze e ha continuato. Gesù non ha considerato essere Dio una cosa alla quale aggrapparsi, ma umiliò se stesso ed è venuto qui e ha sofferto. E ha sofferto fino alla morte di croce per te, per venire a cercare te. Forse poco poco Dio ci sta chiedendo di fare la stessa cosa. Cerca quella persona che stai pensando proprio adesso, vada a cercare, contattala, quella persona che non sta venendo più in chiesa. Ehi, non essere indifferente, manda un messaggio. È tua sorella, è tuo fratello. C'è discordia? Ehi, si chiarisce tutto, ve lo posso garantire, si chiarisce tutto, perché stiamo parlando di una cosa troppo importante, che è la Chiesa di Cristo. Va molto oltre l'andare d'accordo e l'essere tutti amici. Non possiamo essere amici di tutti, non sto dicendo questo. Sto dicendo che dobbiamo proteggere l'unità della Chiesa, essendo integri e coerenti, coerenti con quello che leggiamo e con quello che diciamo. Gesù è il nostro fratello migliore ed è Lui l'esempio che possiamo seguire, che dobbiamo imitare, perché è una chiesa, perché è una famiglia fatta di figli di Dio e di fratelli e sorelle che comprendono l'importanza di essere i custodi l'uno dell'altro. È una chiesa che rispecchia l'identità che Gesù ci ha dato, ed è una chiesa che cresce, io ve lo posso garantire, è una chiesa che cresce, perché c'è scritto, e se c'è scritto è così. E allora vai oltre la tua antipatia, e allora vai oltre il desiderio di parlare, e vai oltre, perché ci sono persone che hanno bisogno di Gesù. Basta perdere tempo, basta ad essere una chiesa che dà, e non sto dicendo che lo siamo, no, io lo so che ci vogliamo bene, ma sono persuasa dall'idea che possiamo crescere in questo, che possiamo andare di gloria in gloria, che possiamo raggiungere una bellezza più grande. Siete d'accordo? Allora, adesso vivremo il momento della Santa Cena. Ed è un momento dove noi ricordiamo il sacrificio che Gesù ha fatto per me e per te. Ci ricordiamo che Gesù è il fratello migliore che ha oltrepassato l'universo per venire a cercare te e me. E con il pane ricordiamo che Lui ha dato il suo corpo per la tua e la mia salvezza, per la tua e la mia redenzione. Con il vino ricordiamo che ha versato Gesù il suo sangue per pulirci dai nostri peccati, così che potessimo essere ricongiunti al Padre ed essere chiamati figli ed essere fratelli e sorelle. Io ti incoraggio, ti invito proprio, ci invito a vivere questo momento prendendo una decisione. Decidi a chi devi essere, per chi devi essere un fratello migliore, eh? Per chi devi essere una sorella migliore. Forse nel tuo gruppo c'è qualcosa che non va, e decidi di prendere azione, di fare qualcosa, perché vuoi essere coerente. Allora, perché non ci alziamo? E io voglio ricordare che questo momento, il momento della cena del Signore, è diciamo un momento che noi viviamo come chiesa, e tutti coloro che sono stati battezzati da adulti possono vivere questo momento prendendo, rimaniamo concentrati, prendendo questa decisione di vivere delle relazioni sane con il tuo fratello e con la tua sorella. Se tu non sei stato battezzato da adulto, allora io ti invito a non vivere questo momento a perdita, ma prega, rifletti, chiediti: io davanti a questa verità dove sto? Che cosa devo fare? Allora io pregherò e poi possiamo sentirci liberi di seguire le indicazioni che vi ho appena dato. Amen. Signore Gesù, grazie perché tu sei il nostro fratello maggiore. Grazie perché tu hai fatto per noi quello che nessuno poteva fare. E grazie perché tu ci equipaggi a seguire il tuo insegnamento, a seguire il tuo modello. Io ti prego, Spirito Santo, in questo momento che tu possa sussurrare al cuore della tua Chiesa quali sono quelle relazioni che vuoi che vadano di gloria in gloria, di bellezza in bellezza. Dacci dei nomi, dacci il coraggio di prendere delle decisioni per essere la tua Chiesa senza compromesso, senza macchia, senza ruga, come tu la vuoi. Benedico il pane, benedico il vino e benedico questo momento. Parlaci, Dio. Amen.